Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato per renderlo irriconoscibile. Per identificare la vittima bisognerà aspettare l'autopsia e l'esame del DNA. La certezza è che l'omicida si è accanito contro la sua vittima, un ragazzo di 20-25 anni non ancora identificato, strangolato, accoltellato e poi bruciato. Sarà ai rilievi dei carabinieri dare un nome alla vittima e trovare il suo assassino, forse tramite le impronte digitali che gli investigatori sperano di trovare sul coltello insanguinato rinvenuto accanto alla vittima. La vittima aveva una ferita profonda alla testa, compatibile con una caduta, e diversi segni sul viso, forse l'effetto di una colluttazione. Non è esclusa quindi l'ipotesi di omicidio, ma solo l'autopsia disposta dal PM potrà fare chiarezza su quanto accaduto. Mi sembra abbastanza chiaro il fatto che oggi parleremo di cadaveri. Non certo di cadaveri inconsapevoli, che sono già i protagonisti quotidiani delle cronache politiche, delle cronache sociali. No, parliamo di cadaveri quelli veri, i cadaveri della gente uccisa, coloro che portano addosso una sorta di mappa della perfidia umana. Il cadavere è già un protagonista passivo, a cui nessuno chiede il permesso di essere protagonista, di una serie infinita di programmi televisivi, di pagine di giornali, sia nell'ambito della fiction sia nell'ambito delle riletture salottiere della realtà. Noi ci siamo in questa radio un paio di anni fa presi il lusso, la briga, il grande piacere di scoprire ciò che si nascondesse realmente e dietro delle fantastiche serie di telefilm in cui bellissime dottoresse con le unghie laccate, in cui fantastici dottori abbronzati e palestrati affondavano i polsi dentro il liquame di gente uccisa e semplicemente guardandosi in faccia e scambiandosi sorrisi d'amore riuscivano a capire di quella persona tutto, fino alla settima generazione precedente. Abbiamo visto che in realtà non è esattamente così. La scienza della patologia forense e la medicina legale sono discipline molto, molto difficili e soprattutto più sincera e più profonda realtà che non ci sono mai certezze, che non è che la scienza può spiegare tutto, non è che sempre la tecnologia dà tutte le risposte, ci vuole esperienza, ci vuole spirito di intraprendenza, ci vuole anche la modestia di dover continuamente rivedere le proprie convinzioni e le proprie certezze. E questo l'abbiamo fatto assieme a una donna piuttosto misteriosa, perché ha fatto una sorta di voto di castità televisiva. Difficilmente la vedrete in televisione, la vedrete in televisione nei tanti salotti e salottini in cui con i plastici, con le raffigurazioni, con le foto macabre, con i giornalisti che fanno domande pesanti, c'è sempre un esperto di turno che discetta su quello che potrebbe essere l'arma del delitto, il teatro del delitto, lo stato di conservazione del cadavere e via dicendo. E nonostante questo, questa donna si è occupata personalmente dei più importanti e più grossi delitti mediatici di cui avete avuto mesi, settimane, anni di dissertazioni televisive, di collegamenti, di giornalisti col microfono in mano con la folla dietro. Però il patto che ho fatto con lei questa mattina, che è il motivo per cui siamo amici e spesso ci sentiamo, che non parleremo di nessun caso di cui le fasi processuali non saranno esaurite. Quindi è inutile che voi facciate domande su qualcosa di cui Cristina Cattaneo, che è la persona che qua sta in studio, buongiorno Cristina, buongiorno, si è occupata, perché di tutto quello di cui ancora i giudici devono dire l'ultima parola non possiamo e non vogliamo parlare per nostra scelta deontologica e anche per scelta di Cristina Cattaneo. Cristina, velocemente, per rifare un punto con gli ascoltatori che probabilmente ricorderanno la serie Corpi di Radio 24, una fantastica serie in cui raccontavi tutto di quello che era la patologia forense e la medicina legale. In questi due anni che non ci siamo sentiti, è cambiato l'atteggiamento mediatico nei confronti del delitto eccellente? Ma diciamo che non è cambiato molto, ma ha raggiunto un plateau al quale ci siamo tutti un po' abituati, per cui non c'è più l'indignazione su certe cose. Questa non è una cosa sicuramente positiva. Non è cambiato molto, ma insomma, diciamo che ci siamo un po' più abituati a volte alla curiosità portata ad oltre ogni limite, a certi atteggiamenti di curiosità macabra che a tutti i costi ci deve essere su delitti importanti, come sono importanti tutti i delitti. Ricordiamoci che noi volutamente dividiamo, noi come società distinguiamo i morti di serie A e i morti di serie B. Sono tantissimi morti e le morti efferate che, di cui non si parla, di cui non si sa, che ricevono sicuramente molto meno attenzione. Infatti fra i libri, perché Cristina Cattaneo ha anche trasformato in una chiave tecnico-romanzesca, cioè l'ha raccontato come un racconto quelle che sono le storie delle ossa che lei negli anni ha osservato. Cito qualche suo libro: Morti senza nome, storie di corpi e resti umani da identificare, Mondadori 2005, Turno di notte, indagini, sfide e paura di una patologa forense del 2007, Crimine e farfalle, misteri svelati delle scienze naturali, Raffaello Cortina 2006, il primo libro. Se tu dovessi oggi cominciare a scrivere un libro di questi due anni, qual è la cosa che più ti verrebbe voglia di scrivere? Ma direi la cosa di cui più mi verrebbe voglia di scrivere è innanzitutto quanto stiamo recuperando le tecniche, le discipline che ormai sono state diciamo così messe da parte dalla tecnologia più eccellente come il DNA e così via. L'altra cosa invece che è molto molto interessante è il fenomeno, i fenomeni sociali di cui la medicina legale sta incominciando ad occuparsi, come l'immigrazione e come ad esempio i richiedenti asilo politico che sono state vittime di tortura. Ecco, questi sono degli squarci sull'umanità e delle applicazioni del nostro lavoro che sono estremamente, credo, importanti. 800240024. Ecco, cominciamo a interloquire con Cristina Cattaneo. Avrete le vostre curiosità, limitandoci all'ambito che abbiamo detto. Cristina Cattaneo è qui per risolvere dissipare alcune illusioni rispetto a quello che è l'analisi nella patologia forense di diritti eccellenti. Certo, mi rendo conto che chi ascolta è abituato a ben altro. Il cadavere di Elisa Claps sarebbe stato scoperto nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza alcuni mesi prima del ritrovamento ufficiale avvenuto il 17 marzo scorso. A darne notizia è il quotidiano La Provincia Pavese, che fa risalire la scoperta addirittura a gennaio. Le accuse contro di lui si basavano principalmente su questo: sul seno della sua ex c'era un segno che in primo grado era stato stabilito essere un morso, contestuale all'omicidio e compatibile con l'arcata dentale di Raniero, ma se ora i periti dimostrano che questo segno non è un morso, allora è tutto da rivedere. Altre risultanze della perizia aprono ad una soluzione, ecco, diversa. Ecco Cristina Cattaneo, tracce biologiche dei casi che abbiamo citato, alcuni te ne sei interessata a te, altri no, ma questo tipo di informazione aggiunge realmente qualcosa alla percezione generale rispetto a un delitto? O sono delle indiscrezioni che i giornalisti colgono qua e là, che non hanno nessun senso dal punto di vista concreto della ricerca della verità? Tu su qualcosa di quello di cui abbiamo parlato sei stata mesi sopra, e penso mesi, anni addirittura. Qual è il caso Claps? No, per esempio alcuni casi aperti, il caso Orlandi di adesso, oppure anche su Iara abbiamo lavorato tantissimo, come molti casi di parti d'Italia che non sono assolutamente note alle cronache non internazionali. Non è così semplice dire il morso, l'arcata dentale, via dicendo, c'è qualcosa di molto profondo. Assolutamente no. Diciamo che per tornare alla domanda iniziale, io credo molto nell'attività dei giornalisti, che ci hanno sempre aiutato ad esempio a sensibilizzare l'opinione comune su problematiche medico-legali importanti, cadaveri senza identità, problematiche che vanno risolte. Ma per quel che riguarda i dettagli di casi che sono in corso, sono estremamente delicate sia da un punto di vista etico che da un punto di vista tecnico. Credo che quando ci si sofferma a discutere su indiscrezioni, realtà tecniche che non si sa neanche che siano vere, si fa soltanto del male. Beh, io ho visto intere serate televisive a discutere sul taglio, sulla ferita, sul probabile coltello, messi sul tavolino una serie di coltelli probabili che potrebbero aver fatto la ferita. È fiction pura, può essere divertente, ma non c'entra nulla. In casi miei sono state addirittura cose opposte alla realtà. Ma la cosa più preoccupante, secondo me, è che alcuni di noi sono magari anche giustamente, senza nessuna colpa, colpa dolosa ovviamente, sono vittime di questo atteggiamento, e siccome siamo tutti abituati a parlare di cose di cui non si dovrebbe, legalmente di cui non si potrebbe parlare, a tanti colleghi e gente del mestiere crede, magari anche i giovani, che sia normale divulgare notizie di questo tipo, e questo è un effetto sociale molto grave. Sentiamo Marco da Roma, un ascoltatore, 800240024. È caduto, vediamo se lo rintracciamo mentre è caduto. Allora andiamo avanti con Cristina Cattaneo. Comincio a entrare nello specifico. Tu mi hai accennato a qualcosa di nuovo rispetto alla tua professione. È bello, bello, è interessante professionalmente occuparsi dei grandi delitti, si è sotto l'attenzione dei mezzi di comunicazione, dell'attenzione della massa teleutente, ma in realtà in questo momento c'è un fenomeno nuovo legato anche all'immigrazione che paradossalmente diventa materia tua. Sì, dunque sono due i fenomeni legati all'immigrazione, uno riguarda i cadaveri e l'altro riguarda i viventi. Il primo che riguarda i cadaveri ha a che fare con sempre questi cadaveri senza identità, per cui stiamo combattendo questa battaglia finalmente vinta, perché il Ministero ha approvato la legge sulle persone scomparse, sui cadaveri senza identità, ma diciamo che risolto il problema, quasi risolto il problema per gli italiani, rimane l'enorme problema per gli immigrati, e sono stati fatti degli appelli dalla Croce Rossa internazionale proprio su questa cosa. Si chiede ai paesi europei di creare delle banche dati anche dei soggetti che sono chiaramente senza identità, ma chiaramente probabilmente extracomunitari, comunque immigrati. Pensiamo soltanto anche a Lampedusa o a Catania di quest'estate. E qui allora inizia un'altra battaglia che dovremmo fare come medici legali, di allargamento, di interessamento di quelli che sono i rilievi fatti sui resti umani per capire l'identità, per poter creare delle banche dati a cui parenti che sanno che il loro caro è partito da un paese in guerra e non è mai arrivato, ad esempio in Svizzera o in Germania, dove lo stanno aspettando, qui dare un modo per poter cercare questa persona scomparsa. Ecco, io mi rendo conto che molti pubblici diranno: ma che trasmissione macabra, perché parlate di queste cose? Ne parliamo perché in realtà i resti di uno scomparso sono una mappa attiva di informazioni, e per raggiungere quello che è lo scopo finale di tutti noi, la verità, o per meno un approssimarsi più possibile alla verità, questo è il campo in cui bisogna lavorare, non è che si può lavorare su altro. Ecco, abbiamo recuperato Marco da Roma. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Volevo porre un quesito alla Cattaneo. Io sono addetto ai lavori, mi occupo di polizia scientifica. Volevo sottolineare questo. Come mai non viene mai sottolineato il ripetersi degli accessi sulle scene del crimine, e viene preso anzi come un qualcosa di ulteriormente deontologico e professionale, quando invece noi sappiamo, perché il disciplinare ce lo impone, il protocollo di intervento ce lo impone. Cioè lei si occupa di sopralluoghi su forensi proprio in particolare. Esattamente, con specializzazione in sezione merceologica, però. Lei dice quando arrivo nel teatro del delitto già tanta gente che non ci dovrebbe stare. Sì, compresi i primi intervenuti, quindi sanitari, polizia giudiziaria, polizia mortuaria. E il protocollo cosa prescriverebbe in questo caso? Come sa benissimo la Cattaneo, il protocollo prescrive la prima cosa: allontanare i curiosi umani e non. E mettere il nastro. Esatto, e mettere il nastro, quindi circoscrivere la zona. Umani e non, perché è capitato vedere in ambienti là dove la scena del crimine è isolata, cani che girano, animali eccetera che non sono stati assicurati, no? E quindi anche un animale, che sia domestico o meno, anzi ancora di più quando è domestico, tende ad andare là dove il padrone giace, oppure dove gli affetti, gli odori, gli umori sono più. Fermo un attimo, Marco, rispondiamo sì. Velocemente. Si pone questo problema, un problema tecnico. Problema interessantissimo. Tra l'altro, l'area di specializzazione del signore, la merceologia, è una di quelle che di più soffre della contaminazione. Quindi spiega esattamente di cosa si tratta. Per esempio, fibre, eccetera, che vengono lasciate, che potrebbero essere lasciate per contaminazione sulla vittima, sul corpo, e quindi tu prelevi queste fibre all'autopsia, le mandi al merceologo, e che magari crea una storia su queste cose. Cose invece sono soltanto frutto di una contaminazione, quindi è molto importante e molto difficile. Perché nei telefilm vediamo, trovano un filo di cotone e risalgono, sì, lo stilista che ha disegnato l'abito. È chiaro, ovviamente siamo fuori scala qui, però è molto importante la problematica del sopralluogo. È molto difficile protocollare un sopralluogo in luoghi chiusi, immaginiamo in un bosco con un cadavere carbonizzato, quindi, ma anche se è difficile, ha assolutamente ragione, e direi che è una questione... italiana e sicuramente tecnica, che devo dire sta sempre migliorando, sta un po' migliorando, ma ha bisogno ancora di molta attenzione. Ci sono le persone da tenere più lontano. Io ti ho visto in televisione tante volte, ma le persone che tu stavi scavando, ma siamo noi stessi anche le persone da tenere lontane, nel senso che dobbiamo assolutamente creare una mappa di chi è stato più a contatto, di che cosa, giustamente, come dice il collega, di che cosa è stato a contatto con l'animale. Però è fondamentale, però bisogna distinguere i momenti realmente importanti in cui non ci deve essere contaminazione o fonte di contaminazione, o se c'è deve essere conosciuta, da quelli successivi. Per esempio, a volte negli ambienti naturali è necessario tornare, anche se l'ambiente è inquinato, a quel punto lì non importa più, perché se io devo fare un campione di pianto, di terreno che è stato vicino al morto, ho bisogno soltanto di sapere che tipo di pianta è, non mi interessa più se è stata contaminata o no. Però è una cosa che secondo me nel tempo, secondo me tra una decina d'anni potranno cambiare le cose con le nuove generazioni anche di medici legali. Sentiamo altri ascoltatori. Giorgio da Milano. Buongiorno. Sì. Volevo salutare innanzitutto Cristina, che di cui sono un ammiratore folle. Volevo chiedere, volevo spostare un ecco po'. Ecco, perché si ammira un medico legale? Mi faccia capire. Ma si ammira perché basta leggere i suoi libri, nel modo in cui tratta la medicina legale. È una materia appassionante. Ah, molto appassionante, soprattutto, ripeto, come viene trattata nei libri di Cristina, che sono libri molto accessibili a tutti, in cui la medicina legale è spiegata in maniera molto chiara, molto, come ripeto, molto accessibile. Lo sa perché? Perché è una visione laica, è una visione scientifica, è una visione, certo, non caricata di aspetti emotivi. Quando io divento il cadavere e l'esito di un assassino, di un delitto, io divento materia da leggere. In questo momento tutta la sacralità lecita, riconoscibile, la mia spoglia umana va in secondo piano di fronte al fatto che io devo raccontare qualcosa, devo rivelare chi ha fatto quella cosa. Ma io volevo spostare un po' l'attenzione non tanto sul cadavere, ma su, per esempio, la presenza del medico legale al pronto soccorso, addirittura negli ospedali per i bambini, dove a volte il bambino arriva e si raccontano delle storie assurde, tipo è caduto dalle scale, è inciampato sul passeggino. Come si capisce una violenza, esatto, su un bambino, questo, su un minore, su una persona debole? Su una donna che non ha il coraggio di denunciare una violenza. Chiarissima, chiarissima la domanda. Mandiamo un'altra telefonata, poi risponde tutto assieme. Fabrizio da Cuneo. Buongiorno, Nicoletti. Saluto anche la signora Cattaneo. La domanda è il segretario dice se lei ha dei problemi può visitarla senza problemi. Meglio di no. Grazie. No, io volevo fare questa domanda, no? Dato che io sono un tipo particolarmente impressionabile, mi domandavo, visto che anche la signora avrà una sua emotività, una sfera emotiva, come si fa a stare a contatto con scene di macabro in maniera così assidua e addormentarsi la sera in maniera serena e tranquilla? Cioè, è il suo mestiere. Cioè, io quando vado a trovare Cristina Cattaneo prende il cappuccino mentre guarda i resti carbonizzati di un teschio, è il suo mestiere. Comunque rispondi te, Cristina. Ok, allora rispondiamo alla prima, che probabilmente è persona che ha poi la approfondiamo perché la prima risposta merita magari molto. Magari rispondiamo prima alla seconda, allora, così prendiamo l'interruzione e poi riprendiamo la seconda per parte. Rispondere alla seconda, l'emotività, è chiaro che questo è un mestiere che ti porti a casa, è un mestiere che alla fine non c'è mai un happy ending, perché chiaramente la materia è brutta. Però devo dire che metabolizzi, ti porti a casa, e la sofferenza umana si sa che c'è, e quindi il macabro non c'è più, c'è soltanto la sofferenza. E direi che a volte ti dà anche qualche soddisfazione, per esempio quando lavori sulle persone. È vero che noi lavoriamo sui viventi cercando di riconoscere i segni di un delitto che è avvenuto su proprio la persona che sta soffrendo e che è ancora viva, e non facciamo parte dell'aspetto terapeutico della cura. Però devo dire che riconoscere o accertare il fatto che una persona veramente è stata torturata o veramente è stata picchiata, a volte fa del bene anche riconoscere queste lesioni, fa del bene anche psicologicamente alla persona, per cui un po' di bene si porta a casa. C'è anche da dire che tu ridai da un punto di vista serenità l'inquietudine che sei diventata in quei resti. Dal tuo punto di vista, perlomeno ci provi, cerchi di ridare giustizia, di ritrovare chi ha determinato quello stato lì. Si cerca di dare giustizia, è un parolone, ci credevo 20 anni fa, adesso un po' più vecchia. Ci sì, ci avvicini, ci provi, e poi a volte la cosa che non ti aspetti è che anche se c'è un morto, si tratta di un morto, i parenti che ti ringraziano perché almeno è stato identificato, o comunque perché almeno un filo di giustizia è stata fatta. Melog, la realtà condivisa. Bianchini quindi nega di essere l'autore di 3 stupri di Roma, nega di essere quell'uomo ripreso in un garage romano nel tentativo di una violenza, nega. Per gli investigatori è proprio la prova del DNA ad incastrarlo. Il suo profilo genetico, dice il capo della squadra mobile, ha una compatibilità massima con quello dei 3 stupri. Bianchini questa volta non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha risposto, ha spiegato la sua posizione, ha negato tutti gli addebiti e ha detto chiaramente bisogna ripetere nella forma dell'incidente probatorio l'esame del DNA, perché lui ha la certezza assoluta che il DNA non può corrispondere perché non è stato lui l'autore. Il pubblico ministero ha chiesto la convalida del fermo sulla base anche di altri indizi, le testimonianze di alcune vittime, gli oggetti trovati in casa sua e quel precedente specifico di 14 anni fa. 800 24 00 24, abbiamo in studio Cristina Cattaneo, patologa forense, medico legale, di persona si è occupata dei casi di cronaca più truculenti e più mediaticamente riverberati nel nostro paese negli ultimi anni. Un ascoltatore ha domandato prima a Cristina Cattaneo, ma c'è in Italia un medico legale anche nel pronto soccorso, quando arrivano donne picchiate, donne stuprate, bambini con strani segnali addosso. Abbiamo preso una clip che parla della storia di uno stupratore di Roma, emerge questo termine che ci fa infervorare tutti, la prova del DNA. Ecco, in questi casi quanto è efficace? Quanto è la legge divina inoppugnabile il DNA? Ma il DNA sicuramente è uno degli strumenti più potenti in assoluto, però va utilizzato bene, come abbiamo già detto tantissime volte. E in questi casi chiaramente spesso gli stupratori, gli aggressori in generale lasciano tracce di DNA sulla vittima, per cui una delle prime cose che si fa sulla vittima, stiamo parlando del vivo, è quella di tamponare le aree di lì piuttosto che nei genitali se si tratta di una violenza sessuale, per trarre il DNA di un potenziale aggressore e così via. Però sono tante altre le cose che devono essere fatte sulla vittima. Prima si parlava di medici legali in pronto soccorso. Allora, chiaramente la realtà della Francia è un filo diversa dalla nostra. In Francia, ad esempio, il medico legale vive in ospedale e viene chiamato quando c'è quello colpito dal colpo d'arma da fuoco, così come la donna picchiata, la donna violentata. E diciamo, quindi, può fare un'indagine immediata? Può fare un'indagine immediata, perché la presenza del medico legale insieme agli altri esperti che sono lì per curare, e a mio avviso non è per tirare acqua al mio mulino, ma è fondamentale, perché il medico legale per formazione è colui che legge e interpreta le lesioni, certo, le lesioni tu drammatiche. Stai parlando di una situazione in cui non c'è nemmeno il letto per appoggiare il degente, capito? Esattamente. Quale è il medico legale? Esatto, a volte non c'è proprio nemmeno un medico. Però quando c'è il medico, chiaramente queste cose dovrebbero essere fatte. E a Milano c'è una situazione, diciamo così, bellissima, una situazione di eccellenza, che è il soccorso violenza sessuale della Mangiagalli, e quindi il medico legale è integrato in tutta una serie di persone, di specialisti che si concentrano sulla vittima. Però devo dire che questa cosa del medico legale negli ospedali per accudire da un punto di vista medico legale la vittima è fondamentale, perché spesso poi parliamo un attimo, lasciamo da parte la vittima, che è la cosa più importante, ma a scopo processuale spesso l'elemento rilievo del piccolo livido o della piccola escoriazione può essere l'unico elemento che testimonia l'aggressione. Ecco, ti faccio un esempio, scusami. Una donna subisce una violenza familiare o da parte di uno sconosciuto, va al pronto soccorso perché è così lucida di dire vado subito al pronto soccorso. Se non c'è un medico legale, il primo infermiere o medico pensa, diciamo, a curare quelle che sono le lesioni, ma probabilmente fa degli sfracelli dal punto di vista di medicina legale. Sacrosanto curare le lesioni, quindi è chiaro che il medico legale deve inserirsi nel momento in cui può, però è chiaro che documentare la dimensione, la forma, non è che dice facciamo un tampone per prendere il campione. Non basta, bisogna fare tutta un'altra serie di mettere in atto tutta un'altra serie di accorgimenti, per esempio raccogliere subito le urine, salvare gli indumenti, fotografare, rilevare bene tutte le lesioni, perché potrebbero essere l'unico elemento, se non c'è DNA ad esempio, potrebbe essere l'unico elemento che dimostra il reato. Tra l'altro, anche se c'è DNA, se pensiamo a reati domestici che avvengono in famiglia, è normale che ci sia il DNA del convivente sulla vittima, e quindi l'evidenza delle lesioni diventa ancora più importante. In un caso paradossale in cui una vittima è molto lucida e molto consapevole. Cosa dovrebbe fare per avere la certezza che perlomeno il colpevole ha possibilità di essere identificato? Cercare un centro dove ci sia un medico legale? Sì, beh, no, il centro dove ci siano o medici legali o ma comunque esperti che hanno un training da un punto di vista medico legale. Adesso non possiamo pretendere che in Italia abbiamo, speriamo che un futuro sia così, però l'ideale appunto è rivolgersi a centri specializzati, perché sono materie molto delicate che non possono essere trattate da tutti i medici e da tutti i centri, e soprattutto magari salvaguardare indumenti e non lavarsi, so che è brutto a dirsi, però bisogna salvaguardare per tutte le tracce possibili. Walter da Venezia, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Allora, io sono rimasto molto incuriosito da tutto questo. Sono Walter e sono presidente, adesso forse esco un po' dall'argomento, no? Sono presidente di un'associazione di volontariato che di familiari che è nata dopo la chiusura dei manicomi. Dopo la 180, diciamo. È bravissimo, bravo. Finalmente uno è informato. Beh, formato. Sì, noi siamo è la base. La legge Basaglia. Bravissimo. Non lo so. Sì, l'associazione è di far composta da solo familiari, con parecchi, perché abbiamo molti sostenitori. Comunque va bene, l'argomento per la Cristina, che mi sta un po' affascinando come modo di spiegare le cose, questa grande naturalezza e questa pulizia nel linguaggio, mi ha fatto venire Scusi, un medico legale dovrebbe dire parolacce, bestemmiare, è chiaro. Adesso io ultimamente ho fatto una scommessa con il primario del Centro di Salute Mentale di Palmanova e ci siamo ripromessi, perché ci vediamo a volte spesso per parlare appunto di argomenti che riguardano la malattia mentale, la schizofrenia. Ma andiamo al punto, perché sennò andiamo al punto. Cosa vuole chiedere? Siamo ripromessi di non dire parolacce, di usare un termine. No, io ne dico tante, ma non è quello. Entriamo nel dettaglio, cosa vuole sapere? Ecco, va bene. Il dettaglio non c'è, la mia è una domanda fuori luogo. Cioè, nel senso, esiste, può esistere all'interno delle operazioni in cui lei, in cui Cristina si è trovata, anche una parvenza di possibilità che queste persone avevano delle schizofrenie? Perché noi che ci occupiamo di queste cose, molte occasioni di notte, perché occupandosene 24 su 24, ci capita di incontrare proprio queste situazioni che sono così, che sono terribili, che sono terrificanti. Ma lei parla dal punto di vista di potenziali vittime o i segni di una patologia psichiatrica questo? Potenziali vittime e anche potenziali esecutori. Vediamo se Cristina ha capito la domanda. Aspetti, l'altra domanda è questa: se Cristina, ha frequentato qualche centro appunto di salute mentale, nel quale poi dopo, come dire, secondo me si ha la profondità di quello che può accadere ad una persona quando entra in queste situazioni. Diciamo che ultimamente, la capisco, non voglio drammatizzare la sua domanda. Ci sono dei filoni di telefilm e di fiction molto, molto interessanti, in cui di solito i delitti si consumano sempre nell'ambito di un luogo dove stanno malati psichiatrici. C'è sempre uno psichiatra, ex naturalmente gerarca nazista, che insieme a un'ex suora, che naturalmente è il suo braccio destro, poi tagliano la gente a pezzi e via dicendo. Cristina, perché è molto ispirato. Questo è un argomento interessantissimo. Ovviamente per quel che riguarda il versante vittima, forse affetta da patologia psichiatrica, questo senz'altro. È chiaro che di solito si sa, o la rilevanza che ha da un punto di vista medico-legale, o che ha riguardo al perché si è trovato morto, perché è stato ucciso, c'entra probabilmente con le frequentazioni, con il non frequentare persone che magari in altre situazioni psichiatriche non avrebbe frequentato, eccetera eccetera, però secondo me è più importante, o forse più interessante, il versante dell'aggressore. Cioè, l'autore può essere una persona colpita da queste malattie? Sappiamo sicuramente sì, però secondo me, da un punto di vista soprattutto sociale, e la metto giù con un linguaggio, perché tra l'altro la materia non è la mia, però quindi con un linguaggio molto semplice, è fondamentale, ed è molto difficile dal punto di vista della psichiatria forense, riuscire a distinguere quella che è la vera cattiveria, che è normale nell'uomo, da quella che è la patologia. E credo che questo sia il problema molto grosso che abbiamo visto a volte un po' che ha creato molte discussioni in certi processi eccellenti, molto importanti, molto famosi, non importanti ma famosi. E quindi sicuramente la patologia psichiatrica è un giocatore molto importante in questa partita, però io credo che tra 10 anni potremo parlare di cose molto interessanti. Adesso si stanno fiorando queste nuovi risultati di ricerca di scienze, di neuroscienze, che ci aiutano non a ricostruire cosa pensa una persona, cosa può aver pensato una persona, quegli impulsi elettrici lì sono persi, però a capire addirittura certe aree del cervello che rappresentano certi comportamenti e quindi se sono affette da patologie potrebbero influire su determinati comportamenti. Quindi tra dieci anni credo che si potrà fare un discorso molto più scientifico. Io ho potuto frequentare, non ho frequentato da professionista mai centri dove si potesse interagire con persone affette da patologie psichiatriche. L'ho fatto da studentessa ancora che di medicina, di biologia, e devo dire che ha lasciato profondamente il segno, e spesso li identifico più con le vittime che con autori. Ecco, l'importante è che nei prossimi 10 anni avremo strumenti scientifici più raffinati. In questi 10 anni, decennio che stiamo vivendo, cerchiamo di sfatare alcune superstizioni rispetto alla malattia psichiatrica, alla patologia psichiatrica, che non necessariamente un paziente psichiatrico ha istinti omicidi, perché spesso molte volte si cerca sempre il lato patologico. Non dimentichiamo che siamo tutti assassini, tutti abbiamo dentro di noi l'istinto profondo, radicale, ancestrale di sopprimere altre persone, che è la normalità. Essendo civilizzati, noi lo reprimiamo, lo elaboriamo altrimenti, andiamo dagli psichiatri, facciamo sport estremi, ci teniamo dentro tutto, ma tutti in realtà nasciamo con il nostro DNA l'idea che una persona che ci infastidisce, che ci fa ombra, possiamo tranquillamente farla a pezzi. Melog, la realtà condivisa. Conferma che Mullins ha fatto sesso con Emily e Lauren. Se è l'assassino, perché Becca non aveva tracce di sperma? Forse quando è arrivato a lei non era più in grado di eiaculare. Ho eseguito il riscontro materiale tra la punta rotta estratta da Becca e il coltello recuperato all'esterno del bar. È lo stesso usato per pugnalare Marlon Frost? Ancora non lo sappiamo. Sara è in ospedale, porterà un campione di DNA per eseguire un confronto. Chiunque abbia aggredito Frost ha ucciso le ragazze. C'erano impronte sul coltello? Senza dettagli delle creste. Stesse sbavature trovate sulla bottiglia e nelle stanze da letto. Delle impronte sbavate non possono accusare Mullins. Non capisco, pugnala quel tale e poi rientra nel bar. Tutte le prove trovate. Questo accade quando lavori, Cristina. Esattamente così parli con i tuoi collaboratori? Direi, forse un po' diverso. Ecco la differenza. Insomma, poi mi distraggo anche perché è talmente banale, fuori da ogni realtà. È totale surrealtà. È surrealtà, infatti. Ecco, ma qual è il termine, per noi profani, qual è il termine più surreale? Non si dicono queste cose, no, già si sanno. No, è il tono che è più surreale. Ah, ho scoperto, cioè il tono che è surreale. Cioè, casualmente arriva il genetista che ti dice: ma sai che sono riuscita a pulire quella schifezza dal campione, siamo riusciti a capire qualcosa al profilo genetico, quindi forse è lui. Cioè, questo è proprio il termine, la terminologia. È il super cazzolismo legato alla medicina legale. Francesca, buongiorno. Buongiorno, ecco, io volevo appunto chiedere se un eventuale omicida ha imparato qualcosa da questi programmi. Come si ammazza in maniera sicura? Ecco, in maniera sicura. Vale, c'è già uno che mi sta scocciando da 2 ore, mi sta scrivendo: è vero che con l'insulina si può fare il delitto perfetto? Cioè, adesso tutti hanno imparato. Ma com'è che... Può provare con delle supposte glicerina, non lo so, si ingegni. I delitti perfetti sicuramente esistono e sono quelli, magari basta lasciare decomporre il cadavere e tutto diventa molto più difficile. Certo. Quindi, però è vero che cosa insegna la fiction agli autori di reati? È chiaro che qualche cosa insegna, però direi che non tutto, ma non perché non si può, ma perché gli ideatori di fiction ovviamente sono persone che non sono del mestiere. Direi che il rapporto, Cristina, è quanto i film anni 80 di Kung Fu cinese insegnava la difesa personale. Esattamente, stessa cosa. Quindi ci sono sempre degli elementi, come dimostrano recenti casi che abbiamo fatto, che fanno capire che gli autori tutto. Senti, non mi parli, sanno. Mi parli di quanto sono bravi quelli della mafia cinese a fare a pezzi cadaveri? Ma non so se sono esattamente loro, però alcuni un paio di casi negli ultimi 15 anni, quindi non creiamo allarmismo. Però sicuramente ci sono stati dei casi di omicidio omicidio con eventuale successivo depezzamento per nascondere meglio il cadavere, sicuramente attribuiti questi reati alla mafia cinese, e la capacità nella disarticolazione del bacino degli arti superiori ci avete provato, ma non siete riusciti a essere così bravi a lasciare così pochi segni sulle ossa di coltello. C'erano pochissimi segni, sembrava quasi decomposto naturalmente, invece era stato tagliato, sminuzzato, ma con grandissima agilità. E ci facciano gli involtini primavera? Non credo proprio. Stefano da Verona. Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno. E io volevo fare due osservazioni alla collega e al dottor Nicoletti. Lei è un medico? Io sono un medico e ho due specialità. Prima osservazione: durante il corso di laurea e le due specialità, a mio giudizio non è mai stata data un'adeguata preparazione medico-legale. Voglio dire, il mio intervento, premetto, vuole essere costruttivamente polemico. La medicina legale io ritengo che, al di là del gusto perverso per il macabro che ha la collettività, è estremamente raffinata. E se venisse data agli studenti un'adeguata preparazione, tante controversie sarebbero evitate e la professione sarebbe molto meglio. Mi riferisco alla corretta gestione della cartella clinica, al consenso informato, al colloquio con i familiari. Seconda osservazione, quando ero nel 118 non è mai stata data una preparazione in questo senso. Venivano fatte decine di chiamate inutili, c'è il morto, venite, da parte delle forze dell'ordine. La constatazione può essere fatta, ma un'adeguata formazione nel perimetrare l'area, nel non intervenire oppure nel gestire già per telefono. Non sapevate nulla di quello? Io non ho avuto nessuna. Padre dottore, le dirò una cosa che la sorprenderà. La mia famiglia, per tradizione familiare, voleva che io facessi giurisprudenza. Mi iscrissi al primo anno, non capì, detti 10 volte diritto privato, cambiai facoltà. Però l'unico esame che detti il primo anno fu proprio medicina legale, che è un esame facilissimo, una dispensina piccolina, uno si dava una letta lì, era divertente perché c'era le foto con la gente che gli passava il treno sopra fatta a pezzi, le forme di impiccagione. Quindi, per paradosso, io ho dato un esame di medicina legale con nulla a che fare con la medicina. Cristina. Allora, due domande puntualissime. E per quello che riguarda il discorso del 118, è verissimo, bisognerebbe avere più connessioni con il 118, un po' sul modello svizzero. La polizia del Canton Ticino sta insegnando, siccome non ci sono medici legali ovunque che arrivino subito per fare un sopralluogo adeguato, il problema l'hanno risolto facendo un training piuttosto intenso su tutta la Svizzera a medici del 118 per le situazioni che sono borderline, che non chiaramente necessitano per forza l'intervento del medico legale. Invece la prima domanda è assolutamente fondamentale e bisognerebbe dedicare soltanto una puntata a questo. D'accordissimo che non c'è sufficiente formazione in medicina legale sia ai medici generici sia agli specialisti di medicina legale. Credo che alle altre specialità bisognerebbe dare più informazioni su cose che riguardano consenso, ma anche di bioetica eccetera eccetera, nonché di patologia forense. Invece i medici legali hanno un grosso problema, che la disciplina è troppo ampia. Adesso bisognerebbe forse anche suddividere le specializzazioni nell'ambito della medicina legale, perché abbiamo anche oggi solo tanto l'ambito e sferrato un'infinità di campi. Sì, oggi, ma non abbiamo toccato i campi di tutto il civile, del campi del il medico legale è quello che si occupa dal colpo di frusta all'entomologia. E forse troppo, forse bisognerebbe incominciare a ristrutturare i ruoli, dividere la patologia forense da altri campi e quindi ripensare un po' le specialità. Grazie Cristina Cattano, grazie agli ascoltatori che sono intervenuti. Ci sentiamo ancora per una volta domani mattina.